amore che nasce così, come una sfida su parole altrui, una carezza che si intreccia coi baci, come un sogno di colori vivaci. Da ora siamo tutti uniti, nel sempre in questa canzone. Da ora anche il tempo si inchina alle nostre parole, al nostro volere. Un amore come tanti altri, il più bello e il più brutto del mondo. Un amore come tanti altri, il più brutto e il più bello del mondo. Una storia che non è certo nuova, cominciata un giorno qualunque. Una storia come tante altre, e che un giorno finisce comunque. Ehi! Strade percorse con te, amori profumati, colori cantati per te, ricordi di soffici nubi, intorno e lontano da me, mani piumate asciugano lacrime, sfiorano il viso, carezzano solchi di amori e dolori lasciati. Oggi il cielo si sveglia piangendo perché il sole non lo vuole più, ma io sento che un giorno di questi tornerà e tornerai anche tu. Sulla soglia ti attendo contento contro il mondo che giura di no a chi dice che lei sta vincendo. Un sorriso io regalerò. Non importa chi vince o chi perde, la tua mano ha sfiorato la mia, un tuo bacio ha toccato il mio centro e nel tempo ha lasciato una scia. A chi dice che il vento è silenzio, una rosa danzante offrirò. Sarà la morte a provare spavento, col tuo amore nel petto, io no. Ogni giorno ricamo una stella, abbracciando il tuo corpo solcato. Ogni giorno addolcisco la coppa, sfiorando il tuo cuore incrinato. Le tue curve sono la mia strada, le tue grida la mia mentalità, l'incalzare del tempo che duole. Ne faremo un canto, un amore. Lo straccione non vuole piacersi ed il santo non vuole il dottore, mentre l'angelo sceglie i due sessi, l'uomo annaffia un albero motore. Non esiste tradirsi o volersi, non esiste un padre eterno alligatore, non esiste la moda dei diversi o una forma di luna inferiore. Membra abbracciano memoria, respirano senso di noi, rimane volo in sospiro fra cieli infiniti di noi. Siamo nulla, amore mio, nel mondo che gioca su noi. Siamo anime unite da sempre, vive in forza di noi. Il bacio dalle sue mille forme, si manifesta umano l'amore, apre il cuore, dirige la mente, indifferente indifferente all'indifferente soffrire. Il pensiero percorre la strada sotto un cielo privo di nuvole. Chiudi gli occhi che il miracolo appare dall'incontro tra le labbra e il tuo cuore. E di nuovo un altro tormento, e di nuovo un'altra speranza, e di nuovo c'è poco da fare. Impaziente, non posso aspettare. Io che ne ho visti 100, ma 100 non mi bastano più. Scambiare due cuori per uno, non sapere se sono io o sei tu. Vento dei verdi anni che scompigli le chiome alle fanciulle, vento che spezza le montagne, sete d'azzurri tramonti. Io vorrei senza rimorso amarti, la tua bocca al sapore dei sensi, i tuoi occhi un'acqua senza ritorno, la tua ombra e la mia luce il mio canto. Partire, volare o morire, non si sa da che parte iniziare. Di rinunce, perdite e attese che riempiono le tasche di pene. Mi dice il mio amore la sera, stringiti a me, non parlare, che il tempo è omicida, ti ammalia, poi neanche ti vede. Collettiva Song.